Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar, è lunedì. Bellissimo, inizio di settimana, bellissimo. Perché? Ma come perché? È la quarta vita di Zeman. Come sarebbe? Ecco. Beh, adesso non crederai che lo riservassi al commento al PD, questa sì, no, certo. Esultanza. No, che ci farà Zeman ai giocatori appena arriva? Ma secondo me sono effetti i funghi messicani. Non lo so, qualcosa di i funghi messicani, ma, dai. No, miracoli, voglio dire miracoli. Miracoli, no. Sportivi. Sì, sportivi, di solito durano ormai, però li fa, ecco. Sì, esatto, durano... Sì, forse due o tre partite, però capite, magari quelle due o tre partite così porterà a casa 9 punti in 3 partite che possono essere decisivi, anche se esatto. Però per Pescara forse non va, però è impressionante, insomma, è quasi come il Baggio da Matrice, che ha commosso tutti a dire la verità, esatto. Personaggi che si ritirano in silenzio, ogni tanto fanno vedere che con il silenzio la stima e la considerazione di cui godono cresce, a differenza dei politici che parlano e la loro invece scende, di la verità. Ci ho pensato davvero, pensando sì. A Baggio e alla sua strategia adesso, lo dico senza ironia, buddista, perché poi sappiamo che questa cosa conta molto nella sua vita. Però ti dirò, prima di iniziare il tema obbligato, vorrei fare un'osservazione, perché oggi mi sono piegato in due, sì, perché adesso parliamo della politica alta tra poco, immagino, eccetera, però ci sono le cose che noi cittadini, veramente, quando ci prendono per i fondelli, bisogna avere il fegato di non buttarla mai giù fino in fondo. Perché, per esempio, aprite oggi la pagina, la stampa, pagina 18, troverete auto, via il doppione libretto certificato. Stiamo parlando della uno dei romanzi a puntate più lunghi della nostra stessa storia professionale, caro Alessandro, perché da anni noi commentiamo i politici che ci annunciano: oh, finalmente la motorizzazione e l'ACI, due baracconi separati, i cui costi sono a carico ovviamente degli automobilisti, li mettiamo in un'unica cosa, come tutti i paesi civili, non c'è più il doppione libretto certificato, altrimenti non si fa mai, perché i carrozzoni si difendono, l'ACI in questo caso. Ancora una volta l'annuncio, il sottosegretario Nencini dice: cosa fatta? Allora uno legge il giornale e dice: oh, allora finalmente abbiamo un libretto unico. No, è l'ennesimo annuncio che dice: con la prossima riforma della pubblica amministrazione cosa fa. Ma come si può continuare impunemente a prendere in giro la gente così? Ecco, questa è la domanda che io mi faccio a volte con i politici italiani. Però c'è poco da fare, ti sbagli, perché loro pensano che fare l'annuncio sul giornale conti più della realtà, ed è così. È così. Santo, me lo dico sempre, Sant'Eleuterio di Tournai, evangelizzatore dei Franchi, e oggi due date storiche per la storia del Milan. Perché oggi è l'anniversario, e questa è un'evenienza, insomma, non troppo allegra, però un personaggio storico importante per il Milan, perché moriva Nereo Rocco in questo giorno, e oggi però è il giorno anniversario, perché nel 1986 Berlusconi prendeva il vedi. Forse tra qualche giorno, chissà, lo cede definitivamente. Sì, questo è un po' come la storia del libretto motorizzazione ACI, nel senso che sì, annunciata, ma vedremo, ecco. Vedremo che succede. Allora, tu lo sai, Oscar, che qui dobbiamo parlare di quello che volete, eh? Potete chiamarci all'800 24. Ma il tema è uno. 0024. Ma il tema politico è uno, insomma, la scissione. Titolo della telenovela oggi è: la scissione è a rate. È il titolo del Fatto Quotidiano, secondo me è il migliore. È la scissione devo condividere, sì. Devo dire che... non so, per esempio Emiliano straordinario, il giorno, fino al giorno prima dell'assemblea tuonava contro Renzi, è arrivato lì da Renzi e ha detto: io ho fiducia in Renzi. Quindi dico: beh, è rientrato Emiliano, è uscito. Nessuno ha chiesto che non si candidi, era stato lui. Esatto. In questo esatto. Renzi, la reazione colta sulle sue labbra era anche comprensibile. Quindi era contro Renzi, davanti a Renzi era per Renzi, è uscito e ha detto: no, sto con gli scissionisti, giusto per capire. Semplifichiamo per capire. Sì. Io posso dirti, però, io penso sempre a noi giornalisti. Dove sta scritto che bisogna dedicare tante pagine così a una roba in cui non c'è sostanza. Io capisco, cari colleghi, soprattutto i direttori, i giornali lo sanno tutti, no? Sono delle autocrazie assolute al cui confronto la Corea del Nord è un regime democratico, ed è così, comanda il direttore, decide tutto lui. Allora, io capisco se voi aveste scritto oggi ai vostri lettori: ci sono quattro cose che contano. Primo, levatevi dalla testa ogni cambio del maggioritario, non si torna mai più al maggioritario perché è il proporzionale che resta, se no non si dividerebbero. Primo. Secondo, non c'è una parola sugli errori di governo e sulle cose concrete, come se non avessero governato loro. E questo è un fatto oggettivo. Terzo, non si sa se dura il governo, quindi si può andare a casa perché nascono nuovi gruppi. Allora capirei se aveste analizzato le cose concrete. Invece no, come ha giustamente detto Alessandro, la sua si è stampa stanti a colori, cose personali, e picchi, pucchi, pacchi. E vabbè. No, ma infatti chiediamo anche agli ascoltatori: ma voi avete capito esattamente qual è il motivo alla base di questa possibile scissione? Chiamateci, perché prima Mario Adinolfi ha dato una lettura molto, molto spiccia, se vuoi, e molto pratica, a dire: beh, ma è chiaro, per me è una questione di elezioni e di poltrone, nel senso che con questa legge elettorale tutta questa serie di persone che minacciano la scissione non sarebbero ricandidate da Renzi, e quindi cosa devono fare? Si autotutelano, si metteranno con qualcun altro o faranno un loro partito, prenderanno, che ne so, il 5, il 6, il 7% qualcosa, e potranno rimanere in Parlamento con l'attuale legge elettorale. È una lettura molto brutale, se vuoi, cioè, pensare che Bersani lo faccia per la poltrona, credo di no, magari qualcun altro sì. Ma il problema è, ripeto, uno si aspetterebbe, per non ipotizzare cose simili che altrimenti possono essere tacciate di demagogia e qualunquismo, ci fosse stato uno straccio di dibattito su gli errori commessi governando, che cosa bisogna fare in politica economica, il bilancio, l'Europa. Invece no, zero. E allora capisco chi avanza questa ipotesi, perché dice: ma del resto non parlano d'altro. E infatti non mi spiego come, per esempio, Repubblica in prima pagina oggi c'è un incipit di pezzo molto sobrio che dice: si chiude il più lungo parto della storia politica dell'umanità. Mi auguro che sia autoironico, come ovvio, ecco, dell'umanità. No, dai, dell'umanità no. C'è scritto così, e che vuoi da me? Uno dice: capisco che siete di sinistra, è la vostra parte, però ci fossero temi concreti, no? Il più lungo parto, la saputa dell'umanità, insomma, lasciatemi più pensare. Più della rivoluzione francese. Che capisci che gli stati generali convocati nel 1789 era un cicinin più importante, appena. Secondo questo incipit, no. Però vogliamo salutare Claudio Velardi. Buongiorno, Claudio Velardi. Buongiorno a voi. Insieme a Claudio Velardi salutiamo anche Elisa Calessi, cronista buongiorno. Parlamentare di Libero, bentornata, come va? Ciao, buongiorno, bene, grazie. Allora, non lo so, Velardi, la lettura spiccia di Adinolfi è brutale, Velardi è un renziano, si sa, quindi magari quella lettura la condivide, cioè vogliono solo quello che direbbe a Milano la cadrega, cioè intanto, la poltrona. Dunque, la lettura è giusta, ma va inquadrata in uno scenario assai importante, che peraltro accennava anche adesso Oscar, cioè? La vittoria del no, fondamentalmente, ha fatto precipitare l'Italia dopo 25 anni in una nuova stagione proporzionale. Noi abbiamo avuto un maggioritario assai imperfetto, per amor di Dio, mai compiuto, diciamo, in questi 25 anni scorsi, in cui però comunque al centro c'era la governabilità della società, ok? Cioè l'esigenza di governare la società complessa, e quindi di efficienza, di snellimento, di semplificazione, cose magari mai fatte, ma quantomeno, diciamo, auspicate. Adesso invece quello che conta è la rappresentanza, cioè non mi interessano le soluzioni ai problemi, ma mi interessa la possibilità di poter esprimere, gridare, manifestare da qualche parte i miei bisogni, le mie voglie, le mie esigenze, le mie proteste. Okay? Identità. I politici si adeguano, questo è tutto. E in epoca proporzionale ognuno deve cercare la sua collocazione. Per questo si scindono. Peraltro vedrete che adesso sta succedendo a sinistra, ma anche a destra si conteranno quando si avvieranno le elezioni. Quindi cercano collocazioni personali, anche perché a sinistra più che a destra non hanno altri mestieri, e quindi devono sopravvivere facendo l'unico mestiere che conoscono. Questa sembra una considerazione cinica, ma guardate che è il contrario. Sono cinici i politici che nascondono questa elementare verità dietro parole roboanti e vuote. Per questo poi adesso giustamente voi dite: Ma di che si è parlato ieri? Sì. Non si è parlato di niente. No, però Velardi qua si discuteva anche con Oscar. Prima Oscar diceva giustamente, è fuori onda, è anche un po' riduttivo magari dare una lettura, no Oscar, a dire solo di poltrona, poltrona. Qualche problema politico no, nel personale c'è. Politico vale. Poi ci sono alcuni leader che da decenni intrecciano la storia politica con considerazioni personali, perché la politica è fatta di lotte personali. Ma la politica è cioè, fatta da persone per, esatto, no, e quindi per il nucleo storico che capisco, Renzi è, l'hanno sempre fatto capire, era un'alterità antropologica dal loro punto di vista. Ah, bravissimo. Se posso, scusate, questa era la considerazione successiva che avrei fatto. Guardate, il vero tema italiano è l'odio antropologico nei confronti di Renzi. Non c'è mai stato, neppure nei confronti di Berlusconi, perché nei confronti di Berlusconi c'è sempre stato un odio ideologico. Renzi invece è odiato antropologicamente, perché è oggetto di invidia sociale da parte, perché è una persona, come dire, normale, non è un uomo ricco, non è Trump, non è Berlusconi, non è quello, no, è una persona come gli altri che ha avuto successo, e questo è oggetto di profondissima invidia sociale da parte dei suoi coetanei, è osteggiato dalle categorie più potenti del paese che lui ha tentato di cui ha tentato di rompere la centralità. Se mi chiedete quali sono le categorie, sono due: la prima è quella dei magistrati, ma la seconda, amici miei, è quella a cui ci onoriamo di appartenere tutte e tre, cioè quella dei giornalisti. Ha tentato tutto questo, quindi l'odio antropologico nei confronti di Renzi è profondissimo. Però il punto è che quando, e dopo il 4 dicembre poteva scomparire dalla scena, eccetera, ma quando ieri è tornato in scena, voi direte che sono renziano, sì, ma si è vista la differenza abissale tra Renzi e il resto della compagnia. Però io devo in dire, termini di linguaggio, e dire che uno pensa di modalità di azione, sì, no, di ma parole, è chiaro, di modernità, no? E dire che uno pensa che la politica sia anche discutere per risolvere i problemi della gente, no, invece se hai capito, non so, Elisa Calessi, che i politici li scruti, li osservi, ne scrivi, in realtà ci dice Velardi, stiamo discutendo, sono proprio livori personali, odi personali. Ma guarda, la verità è che la politica, come del resto tutte le attività umane, è determinata da fatti umani innanzitutto, da sentimenti, da aspirazioni, da una dinamica umana. Non c'è da scandalizzarsi, non è detto che sia una cosa brutta, però può portare anche a delle conseguenze non nobilissime, però bisogna tenerne conto. Io devo dire, più seguo la politica, più arrivo a questa conclusione, che dietro spesso le motivazioni più forti sono motivazioni umane, che non è detto che siano sempre negative, però sono motivazioni umane. Se non si parte da questo, non si capisce. Questa scissione infatti è incomprensibile, se non a partire anche da queste cose, ovviamente non solo da questo, ci sono anche motivazioni politiche, scontri politici, scontri di visione, però c'è anche questo. Vorrei aggiungere una cosa rispetto alle considerazioni che condivido assolutamente di Velardi, rispetto all'odio, lui diceva, antropologico per Renzi. Il problema, secondo me, non è solo l'invidia sociale, ma il fatto, e questo Velardi lo sa meglio di me, che Renzi ha rotto una consuetudine che esiste da sempre nella sinistra italiana, e cioè, tanto bisogna considerare che i post-comunisti considerano il PD la prosecuzione della storia PC, PDS, DS, cosa che non dovrebbe essere, perché dovrebbe essere un altro partito, però di fatto loro lo considerano come, diciamo, l'ultimo epigono della loro storia. Ovviamente nella loro storia questi partiti sono sempre stati guidati da persone di quella tradizione, cioè da persone che venivano da una storia della sinistra italiana, del PC, PDS. Non Renzi. Ecco, Renzi rompe, intanto non appartiene a questa storia. Poi c'è un altro problema, ha rotto l'altra consuetudine, cioè il fatto che anche quando un segretario o un leader, penso a Prodi, fortunosamente guidava o un partito o una coalizione di cui facevano parte anche le persone che venivano da quella storia, contrattava sempre con loro, cioè con i depositari della storia del PC, PDS, DS, la conduzione, cioè coi famosi caminetti, coi famosi, cioè con quella che loro chiamano la condivisione, insomma, della guida del partito. Eh beh, insomma, è arrivato Renzi a rompere un po' tutto, a rompere il giocattolo. Ha vinto il congresso e ha incominciato a decidere senza consultare Bersani, D'Alema. è questo il punto che loro non gli perdonano. Solo viene da un'altra storia, ma non li ha consultati su niente. Questione sempre, Oscar, di coinvolgimenti. Però è anche vero che nella storia italiana Cristiano Simbolo, la storia, voglio dire, è lunghissima, la storia delle scissioni. La storia della sinistra italiana è storia di scissioni e di riunificazioni. Però di solito chi si è tenuto il simbolo ha sempre vinto, stravinto nel medio periodo. Quindi io adesso non lo so come succede adesso, la vivranno come un passaggio di transizione, un regolamento di conti, quello che vogliono. Però nella storia, visto che stiamo parlando di gente che la storia l'ha studiata, vive di storia del proprio partito, non so, Velardi, tu come la pensi? È un po' difficile per gente che conosce bene la storia del PC. Paolo Mieli stamattina ricostruisce meravigliosamente, no? Questa storia appunto di scissioni in cui poi generalmente perdono tutti, ma certissimamente perde chi si scinde, diciamo. Però, dal punto di vista elettorale, sicuramente, soprattutto. Torno alla questione che dicevo prima, Oscar, cioè al passaggio dal maggioritario al proporzionale. È molto più difficile con il proporzionale poi stabilire chi effettivamente vince. Certo. Io penso che dentro il PD Renzi stravincerà. Il problema è capire se poi una volta che vince dentro il PD è in grado di riconquistare il governo del paese. Ma certo, perché naturalmente potranno avere anche molti meno voti, ma sono i più decisivi nel proporzionale, come sempre. Il pessimo, orribile cinismo delle minoranze del PD, perché loro che calcolo fanno? Fanno il calcolo che anche se prendono il 4-5%, domani potranno essere determinanti per la formazione di un governo. Allora, questa accusa che poi appunto si fa, che fanno loro spesso, no? Ecco, il cinismo, Renzi, la spregiudicatezza, sono loro che sono, diciamo, vivono dentro un'armatura di cinismo, per cui non se ne fottono niente, diciamo, della creatura che pure hanno contribuito a creare il PD con tutta l'enfasi di questo mondo. Aspirano a prendere quel 5% che con il proporzionale potrebbe essere decisivo domani. Un calcolo orribile, un calcolo che andrebbe orribile, insomma, la politica però è questa. Spero, immagino, sarà punito. No, la politica è questa, aspetta, orribile, però. Aspetta, Alessandro, io condivido il giudizio di Velardi così duro perché, voglio dire, io ho passato tutta la mia vita a superare da giovanissimo la Malfiano la convinzione che quello fosse una cosa giusta, cioè che le minoranze esistevano per salvare l'Italia che maggioritariamente faceva schifo, non aveva spina dorsale, non aveva etica e così via. Io ci ho messo una vita per superare e pensavo che con la Prima Repubblica fosse un dato acquisito che l'avessimo superato tutti. Invece no, torniamo clamorosamente indietro da questo punto di vista. Avete voluto il no al referendum. Vabbè, adesso questo d'accordo. Italia, caro Oscar. Claudio, siccome Italia. Renzi lo sapeva, mettere tutta quella posta su quella scommessa, secondo me, ha dato una mano a questa roba. Questo. Lo sai che la penso anche io così, però resta il fatto, diciamo, che noi paghiamo e pagheremo Pagheremo, sì. Non conteremo niente nei governi che si formano. Partiti a mani liberi e partitini a mani liberi. Destra e sinistra uniti chissà nella lotta. Chissà quanti ne avremo, tra l'altro, questi partitini. Ma le schede elettorali, sette lenzuola. Sentiamo un ascoltatore, poi andiamo in pubblicità, poi tanti altri ascoltatori e riprendiamo su questo tema. Angelo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Scusate, vi ringrazio moltissimo. Io sono ancora un vecchio comunista. Ho fatto tutta la trafila dalla Fizi andando avanti. Sì. Ho avuto la fortuna che Pajek mi ha preso in braccio quando ero bambino ho fatto tutta la trafila. Cioè, sono evoluto, sono diventato democratico. Ma queste persone che se ne stanno andando non sono democratiche, non sanno neanche cos'è la democrazia. Cioè, si fanno un altro partito per prendere il 4% per poi allearsi ancora al PD se eventualmente è il partito ancora per dettare ancora legge. Ma dove siamo? Ma non hanno vergogna. Renzi ha avuto ragione, rottamare, fuori dalle scatole. Aspetti Angelo, cioè, malgrado la sua storia, la sua tradizione, che ha ricordato orgogliosamente, pur dicendo evoluto, Renzi per lei non è stato un problema per la cultura diversa dalla sua che rappresenta, no? No, ma mi ha evoluto. Mi ha evoluto. Cioè, ha dato un'impronta di dire, basta, mettiamoci da parte. Cioè, questi vecchi della, del PC, che sono vecchi per dire, non che sono vecchi perché sono tramontati, no, certo. Potevano aiutare i giovani a crescere, anzi li condannano i giovani, non li fanno crescere. Un'opinione netta, allora, ma certo, Angelo ci sta dicendo, lui ha fatto tutto il percorso comunista, poi come dire, ha capito la svolta renziana, ecco, diciamola così, e non capisce invece chi rimane ancorato a quel vecchio, a quel vecchio cliché. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, prima di tornare un attimo da Elisa Calessi di Libero, sentiamo Federico da Pordenone che cosa vuole dirci. Federico. Sì, buongiorno, salve. Eccoci. Sì, niente, volevo solo dire che praticamente si parla troppo e si sta confondendo il concetto di minoranza. Cioè, io ho votato un partito che non è la minoranza del PD, però capisco che non c'entra nulla questo, quello che si dice sui giornali o si legge per TV. Conta tanto la minoranza del PD, quasi io fossi rappresentato sempre da Bersani e Company. Cioè, non è, questo fa capire che il Parlamento non serve a niente, perché tanto loro nelle loro assemblee combattono tra maggioranza e minoranza, decidono le robe lì e poi quando arrivano in Parlamento la discussione non serve a niente. Quindi questo, per questo secondo me Non serve. Adesso secondo alcuni calcoli dovrebbero esserci tra i 20, chi dice 40, chi 60 parlamentari che se ci fosse la scissione dovrebbero come dire, togliersi dal gruppo Partito Democratico e fare un altro gruppo, no? Quindi ho capito, e questo serve solo a questi qui per entrare nella cerchia di questa minoranza nella maggioranza, per dire che contano qualcosa di più, ma poi alla fine le cose se le decidono tra loro, cioè quelli che sono fuori non contano più, e questo è stato snaturato, quindi il Parlamento, cioè il Parlamento non è più il Parlamento italiano ma è l'assemblea del PD oggi, cosa pazzesca. Vabbè. E i giornali danno seguito a questa cosa qui. Insomma, lei Federica è molto, molto critico. Qua c'è da dire anche, Elisa, che succede? Ci interrogavamo appunto in pubblicità con Oscar, ma Gentiloni in tutto questo, il governo, cioè c'è un governo, viene supportato, non viene supportato. No, perché se nascono rompendo a sinistra dovranno distinguersi su alcune cose di fondo, quindi forse finiscono proprio per dare una mano a Renzi che si va a votare molto prima del 2018, o no? Mi sbaglio, Elisa? Un mistero. Porto col governo Gentiloni, poi dimostra la strumentalità di questa scissione che sta avvenendo, nel senso che all'inizio avevano detto, quando era nato il governo Gentiloni, la minoranza aveva detto appoggeremo il governo Gentiloni di volta in volta, valuteremo provvedimento per provvedimento, quindi diciamo prendendo le distanze. Poi adesso tra i vari motivi per cui rompono con Renzi, perché accusano Renzi di non sostenere abbastanza il governo Gentiloni, quindi non si capisce niente. Peraltro escono dal PD dicendo di voler dialogare, di guardare con quello che c'è a sinistra del PD, ma quello che c'è a sinistra del PD, Sinistra Italiana, eccetera, hanno già detto che loro sono, ovviamente sono contro il governo Gentiloni. Quindi ieri, per esempio, dall'assemblea di Rimini dicevano la prima cosa che noi chiederemo agli scissionisti è di ritirare l'appoggio al governo Gentiloni. Quindi insomma, cioè, la verità è che, come dicevamo all'inizio, in questa vicenda contano poco le questioni di merito, cioè l'appoggio o no al governo Gentiloni, ma conta molto una questioni personali, vicenda tattica, una vicenda tattica di posizionamento. Detto questo, insomma, la domanda, per rispondere alla domanda, secondo me ci saranno delle ripercussioni ovviamente sul governo, anche solo perché per esempio nelle commissioni, soprattutto al Senato, il PD senza la minoranza non ha più la maggioranza, quindi bisogna capire che cosa farà la minoranza, che cosa farà lo stesso PD. No, perché, anche perché però se la minoranza preme l'acceleratore e inizia a votare contro, è come se levasse tempo a lei necessario per preparare il suo futuro elettorale per le liste, quindi fa il gioco di il paradosso è che fa il gioco di Renzi. Ecco. Però l'altro giorno tra i renziani si diceva benissimo, se fanno la scissione si va a votare a giugno a questo punto. Invece dall'altra parte sai cosa dicono? Non so se ce l'abbiamo l'audio, perché è stupendo questo di Bersani, no? Bersani che accusa e mette già le mani avanti e dice sono loro che ci porteranno un governo di destra. Sentite cosa ha detto Bersani, senti. Questi qui che hanno portato il 40 se il prossimo giro mi fanno arrivare un governo della destra, li vado a cercare. Però posso dire una cosa, il governo della destra, il governo con la destra, sì. Ci siamo arrivati grazie alle elezioni del 2013 dove il segretario era Bersani, perché il primo governo con la destra del PD è stato con Bersani, quindi... Sì, vabbè, lì non si sapevano, no. Velardi, c'è Bersani arrabbiato che dice mi portate a destra, mi portate il governo. Come dire, Bersani, evito di commentarlo, basta dire, diciamo, che le cose che ha dette le ha dette ieri in televisione e non ha parlato in assemblea, cioè fossi un militante o un dirigente del PD andrei io a cercare Bersani e come dire, a rincorrerlo. Perché lui, che diciamo è il campione della ditta, ieri in assemblea non ha parlato e si è preso, diciamo, i riflettori della TV, insomma, come comportamento trovo un po' discutibile. Detto questo, c'è un altro elemento che non viene fuori, ma che tutte le cose che ha detto Lito Calessi sono sacrosante. C'è un altro elemento che ritengo decisivo e che viene confessato da qualcuno. Il tema decisivo sono le elezioni amministrative. Perché in sostanza questi campioni della minoranza che cosa volevano fare? Volevano ritardare il congresso per arrivarci dopo le elezioni amministrative, puntando e lavorando ad una sconfitta del PD alle amministrative per poi fare i conti con addirittura nel congresso, sì, posizione di no, ma è così, guardate, è così. No, vabbè, la politica vive di queste cose interne. Io sembro cinico perché queste cose le dico, in realtà a me queste cose fanno male. No, ma sai perché, Claudio, tu ti occupi di politica, ma gli italiani che sentono questi discorsi, voglio dire, capisci? Cioè la politica che punta addirittura a perdere. Però spieghiamoglielo per quello che è davvero la politica, che è così, secondo me. Sì. E allora dicevi, Claudio? Perché gli italiani li votano sti politici, li eleggono e quindi insomma lasciamo perdere adesso questa mistica sugli italiani, sì. Gli italiani sono quello che sono e i politici italiani sono italiani, quelli del PD, quelli del Movimento 5 Stelle e il sovrintendente di Roma che adesso dice che l'ippodromo di Tor di Valle è un bene culturale, siamo tutti italiani e siamo un po' tutti così, lasciamo stare. L'elemento delle amministrative è decisivo perché loro puntavano al ritardo del congresso esattamente per questa ragione, non la potevano e non la possono confessare, ma qualcuno lo dice. Emiliano, che poi dei tre è il più naif, diciamo, sì, a un certo punto l'ha confessato, l'ha detto, quindi insomma si è un po' scoperto su questo fronte. Naturalmente Renzi a questo gioco non ci sta, giustamente, e quindi dice il congresso lo anticipo e quindi si farà prima delle amministrative, addirittura contando sulla possibilità che poi il congresso dia uno slancio verso le amministrative. Sì. Aggiungo un'ultima cosa, scusate, perché in questo gioco tutto paradossale, diciamo, guardate che vi dico, finirà che Renzi sosterrà il governo Gentiloni per un lungo periodo di tempo, forse fino a fine legislatura. Ma io temo questo che accadrà. Tu abbia ragione, perché altrimenti si avvita a una gara a, per così dire, superare a sinistra chi dirà delle cose di sinistra estrema, sfidandolo ad appoggiare Gentiloni, che non so come si tenga insieme, però la follia è questa qua. Che tra l'altro noi parliamo della scissione come se ci fosse già stata, ma chissà se poi ci sarà, perché c'è anche questo. Oggi per esempio Renzi, virgolettato, è l'unico giornale che l'ha sentito un po' gelemica sulla stampa, dice secondo me rimarranno, poi questo è fantastico. Stiamo a vedere. C'è Luigi, ci chiama da Napoli. Luigi. Sì, no, ma io volevo dire che magari la scissione, cioè sarebbe bellissimo, cioè un PD senza D'Alema, Fassino, senza i vecchi, in pensione i vecchi, sarebbe bellissimo vederli, che ne so, D'Alema sulla barca. A parte che Fassino sta con Renzi. Fassina è già uscito. No, Fassino. Fassino sta con Renzi. No, nel senso che la gente ha votato PD nonostante questi qua. Poi alla fine voglio dire, veramente sì, cioè la gente vota i partiti, non vota le persone, cioè... Questo sai, spiegarlo ai leader politici che sono convinti invece di identificare in se stessi la storia del proprio partito è molto dura questa cosa che hai detto. Io sono convinto che tu abbia ragione, soprattutto nei grandi partiti di tradizione storica è chiaro che chi ne studia la storia dell'evoluzione dà ragione a te, è come dici tu, però nella testa dei grandi leader sono sempre loro la storia del loro partito, solo quello del 40%. Un PD senza D'Alema è almeno 4% in più, cioè qua siamo adesso. non facciamo commentare questa a Claudio Velardi, perché non la facciamo commentare questa cattiveria di Luigi da Napoli. Perché loro, gli incisionisti, dicono no. Questo è un partito il cui leader personalizzato fa sempre finta di niente, anche se ha perso milioni di voti. Naturalmente, il perdere milioni di voti loro riferiscono ai voti degli europei, dopo aver contestato allo stesso di essersi iscritti al grande successo delle europee. Quindi, diciamo, la gara è da una parte e dall'altra a chi è più in contraddizione. Tra l'altro, Oscar, incredibilmente tutto ciò ha fatto alzare la cresta, mi verrebbe da dire, o i capelli o la testa a Berlusconi. Lo sapevo, Berlusconi, andare. Che, no, Elisa Calessi, Berlusconi. Voi lo guardate con attenzione, ovviamente a Libero, osservate il centrodestra. Dice adesso puntiamo su Zaia. Così dice, per così almeno evitiamo anche lì una bella scissione nel centrodestra candidando un leghista. Berlusconi che adotta altri tre cuccioli di cane, si fa un lifting, questo scrive Libero. Vedo che stai mettendo sullo stesso piano dei particolari elettorali. No, ma è chiaro che questa scissione, se ci sarà nel PD, diciamo, avrà delle conseguenze anche nel centrodestra, cioè a questo punto conviene al centrodestra trovare una qualche ricomposizione, una qualche unità, perché tu dici? Secondo me sì, perché a questo punto il PD senza la minoranza è possibile che prenda un po' meno voti, cioè che, e quindi siccome lì il problema è che il Presidente della Repubblica, in una logica proporzionale, darà l'incarico al partito che arriva primo. Se adesso riuscissero a fare un listone, forse però anche la separati, logica è la appunto, stessa del proporzionale. Spiegami esatto. Perché chi ha fatto una scelta radicale, identitaria, molto radicale contro l'Europa, contro l'EU, come Salvini e Fratelli d'Italia, dovrebbe avere interesse ad accettare prima una leadership appesa a Strasburgo, ma di fatto insomma è il passato. Però se Zaia, e dall'altra Zaia. Uno per che avere, dice comunque avere, comando io, no, perché? No, è vero, per tattica, cioè per avere l'incarico da Presidente della Repubblica, perché il problema è che la Lega, se anche fa un ottimo risultato, ma prende, che ne so, il 20%, non governa, sarà neanche l'incarico. Ma sarà l'obiettivo della stragrande maggioranza dei partiti con questa legge, non governare e totalizzare il massimo dei voti identitari. Cioè lì bisogna scegliere se puntare a fare un buon risultato, andare all'opposizione e magari fare gli accordi dopo, se provare ad arrivare primi, insomma. E cioè questa è la legge elettorale che consente a tutti l'illusione di fare 5 stelle nella vita. Vediamo se Roberto, ce la facciamo anche con lui, 30 secondi Roberto, dai. Grazie, prego. Sono l'ultimo, sono il più scemo della compagnia, ho compreso le ragioni della scissione. Lei comprende, finalmente. Ed perché? È molto semplice, Renzi ha trasformato il più grande partito del centro-sinistra nel più grande partito del centro-destra, ha fatto delle politiche non di sinistra e per questo motivo una grossa parte dei deputati, dei senatori e degli elettori del centro-sinistra se ne andranno. E il grande Velardi, che capisce tutto, gli ricordo, quando parla dei partiti piccoli del proporzionale, che il suo Renzi governa col nuovo centrodestra, con l'NCD, che è forse arriva al 3%, ha governato con i voti di Ala, che forse arriverà al 3%, e per chi non ha mai lavorato, tra chi non ha mai lavorato tra i politici, il primo è stato il nostro primo ministro finora. È stato Renzi. Quindi insomma, calma. Roberto, io credo che ci restituisca gran parte dello stato d'animo dei militanti che seguono questa cosa. Sto parlando dei militanti, non dei leader. I leader hanno altre dinamiche, però i militanti la pensano così. Molta gente che non ha più votato il PD, è vero, anche se non erano i milioni rispetto al 40%, ma comunque tanti, non lo hanno votato per questo da sinistra. Vedremo. Allora, intanto noi vi ringraziamo, Claudio Velardi, grazie Elisa Calessi, cronista di Libero, parlamentare, e niente. E soprattutto grazie Zeman! Vabbè, dai, non siamo antigenuani, però così è, perché siamo zemaniani. No, ci piacciono queste cose, curve della storia, come devo dire, dai. Esatto, dai, alla prossima, domani.